destino. Capisci un po' sta musica? Chiamate i vostri genitori. Abbracciateli forte e stringetegli la mano. Da lunedì il cammino è quotidiano. Febbraio, ogni giorno alle 18. La camminata quotidiana, insomma. D'Agostino, fermati, ascolta. Ogni giorno alle 18. Se non mi ascolti ti tiro un cazzotto. Sì, sì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18. La camminata quotidiana, insomma. della Gigiù. Il tuo sogno è il tuo destino. Il cammino. Il cammino. Di Gigi D'Agostino. Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! L'elettro show di Gigi D'Agostino dal vivo questa sera, sabato 18 febbraio 2006, ore 23, discoteca Lido, lungomare Cristoforo Colombo 3, località La Eguaglia, Savona. Stai ascoltando Techno Wants.

tuo sogno e il tuo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. M2O. Giorno alle 18. L'orario è quello lì. Stai comodo in salotto, perché io suono alle 18. Cari amici ascoltatori, chiamate i vostri genitori, abbracciateli forte e stringetegli la mano. Da lunedì il cammino è quotidiano. La camminata quotidiana, insomma. Violento.

D'Agostino. Ogni giorno alle 18, M2O. Una camminata quotidiana. D'Agostino dal vivo venerdì 24 febbraio 2006, ore 21, discoteca Karlovy Lacne, Smetanovo Brezi 198, località Novotne Olavka, Praga 1, Repubblica Ceca. Andiamo, regà. Terrorista, stai a capire. Meno accelerata, va. Ogni settimana vota il brano che vuoi ascoltare durante il cammino di Gigi D'Agostino. Fino d'ora in poi ascolta ciò che vuoi dal tuo salotto ogni giorno alle 18. D'ora in poi ascolta ciò che vuoi dal tuo salotto ogni giorno alle 18. Però M2O, fai la votazione. Vai su www.gigidag.com. febbraio, ogni giorno alle 18. Thank you.